24 mattino. L'Italia si desta. Li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te. Buona giornata, buon martedì, buon caffè a tutti. Proviamo a svegliarci anche così questa mattina, 6:29, torna 24 mattino senza Alessandro Milan, ma noi siamo qui puntuali per riprendere come sempre le giornate di Radio 24. Un saluto da Anna Migliorati e un saluto a chi ci farà compagnia questa mattina con noi. Già pronti con la macchinetta del caffè, Silvia Brasca, giornalista della 7, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, ciao Anna. E Luca Rinaldi, collaboratore dell'inchiesta, buongiorno anche a te. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Caffè doppio, Luca Rinaldi, che è stato anche qui in redazione Radio 24. La nostra macchinetta del caffè la conosce bene. Già bevuto stamattina? Sì, già preso per forza. Vabbè, Alessandro Milan invece l'abbiamo lasciato ancora un po' a coccolarsi sotto le coperte questa mattina, beato lui, ma torna, poi gliela lasciamo ancora la sveglia del mattino, non pensi di scappare così. Questa settimana cominciamo, allora Luca, sei stato tu nei cantieri dell'Expo? Sì, abbiamo fatto un giro. Tu come li hai trovati? Allora, noi abbiamo trovato una situazione che, ci sono alcune foto che, diciamo così, per un certo punto di vista parlano per alcuni padiglioni. Siamo a un punto abbastanza, diciamo così, avanzato, anche perché è il minimo sindacale, diciamo così, per che la cosa sia in tempo, dato che sono 7 anni che l'Expo è stato assegnato. Dall'altra parte invece ci sono alcuni ritardi che appunto sette anni, perché poi ne parliamo moltissimo da un anno e mezzo, ma l'assegnazione, come ricordavi, è di sette anni fa. È andato anche il sindaco di Milano Pisapia, secondo lui però qualcosa è stato fatto. Ottimismo della ragione, ottimismo della volontà, chiaramente sappiamo benissimo che bisogna lavorare ancora tanto, aumentare addirittura i ritmi di lavoro o la presenza di operai in cantiere, sul cantiere. Posso dire che da quando ho fatto la visita il dicembre dello scorso anno e poi il periodo dei giorni in cui è venuto il presidente Renzi, sono stati fatti dei passi avanti da gigante. Da gigante, Luca? Da gigante, sì, insomma, diciamo che da gigante fortunatamente, sui cantieri però a un mese di distanza si lavora 24 ore su 24 su tre turni, insomma. Senti, ma secondo te i famosi volontari dell'Expo gli ultimi giorni li metteranno a rifinire? A fare un po' di camouflage, visto che anche su questo c'è stato. O li mettono davanti ai buchi per coprire quel che manca, non lo so. Coprire quel che manca, speriamo di no, insomma, la sensazione però è quella che tante cose si debbano ancora fare anche durante, probabilmente dopo Expo. Basti guardare anche la questione, diciamo così, del famoso appalto zero, quindi quello per le bonifiche che sta andando ancora avanti. Questa è una vecchia storia. Silvia Brasca, parleremo di Expo dopo Expo, ormai siamo già pronti. Siamo pronti. No, intanto mi è piaciuto che si chiami già l'appalto delle bonifiche, quando l'appalto era nato con un ribasso della base d'asta quasi insensato, proprio perché quei terreni erano stati comprati perché le bonifiche non dovevano essere fatte. Il terreno di Expo fu comprato con la rassicurazione che era un affare, proprio perché era un terreno che non doveva essere bonificato. Quando fu fatto appunto l'appalto zero, ce l'ha raccontato benissimo il fatto l'altro giorno, fu affidato a questa cooperativa con un ribasso e dopo i rialzi che hanno triplicato in realtà il costo dell'appalto è stato tutto da bonificare. Ma questa è solo una delle piccole e grandi storie che racconta racconteremo su Expo. A me piace della visita di ieri di Pisapia con Sala, un po' la lunghiata. Guarda, te la faccio sentire questa Pisapia Sala, però, perché è veramente gustosissimo. Chi non l'avesse ancora sentito? Io ho ripreso oggi, ne avevo già parlato con qualcuno di voi, il pezzo del Matin, il giorno successivo all'inaugurazione dell'Expo di Parigi del 1900, e si era scoperto che i Padini, grande inaugurazione, grande successo d'Expo, ma il primo giorno, malgrado quello che avevano scritto alcuni giornali, in realtà quasi nessun padiglione era pronto. Non portare male, no? No, lo porto esattamente per dimostrare, dopo aver detto che invece qua sono già pronti. Quindi qua sono pronti, chiaramente per dire che siamo molto avanti rispetto ad altri Expo. Ecco, più che portare male, Silvia, non è che Pisapia, che ormai ha già detto che tanto a Milano non si ricandida, a questo punto ha la possibilità di dire veramente quel che pensa? Ma sì, però insomma non è, è una persona molto leale, quindi su questo Expo che non ha voluto lui, non ha cercato lui, se l'è trovato tra i piedi nel suo mandato, in questo momento lo sta portando avanti. C'è chi ci sta mettendo su cappello, ripeto, ed è Renzi. Se noi pensiamo che una tra le critiche di Renzi arrivate proprio sul discorso dell'insediamento in Senato, arrivò subito da Maroni, da Milano e da tutti dicendo non ha citato Expo. Se vi ricordate era anche tutto un discorso molto positivo, di slancio, e se ne tenne alla larga per un po', insomma imploravano venga qua, nomini il sottosegretario, nomini un ministro delegato, e si fece aspettare. Da un certo momento in poi invece insomma ha accelerato l'occhio su Expo, fino ad arrivare in una settimana c'è stato un 1-2 del suo ministro delle infrastrutture Delrio che dice abbiamo raddrizzato la situazione, lui dice abbiamo fatto il miracolo, e qua a Milano che dicono ma veramente il miracolo stiamo facendo noi, lo stiamo ecco, quindi sarà molto bello vedere i volontari dell'Expo l'ultimo giorno, li mettiamo lì col pennellino, con le falle rifiniture. Non, tu credi che ce la faranno? Ma io penso di sì, perché io vedo, lo vediamo, lo sappiamo, partiamo dalle piccole cose, le mostre, no? Quando vengono inaugurate le mostre d'arte a Palazzo Reale, ma in qualsiasi anche altro posto. Sì, questo è vero, fino a due giorni prima ci sono scatoloni ovunque e uno dice non è possibile. Secondo me il colpo di Renzi ci sarà, e onestamente bisogna anche non essere severi, se qualcosa proprio non è tutto pronto, insomma io, che non siamo né svizzeri né tedeschi, insomma lo sappiamo. L'importante è che funzioni, che le cose funzioni, e che tutto questo sforzo alla fine abbia un senso. Allora lanciamo una sorta di sondaggio, 349-238-6666, senza polemiche, per carità hanno cominciato a scatenarvi, ma secondo voi sarà pronto l'Expo il primo giorno o no? 349-238-6666, anche oggi gli sms sono qui che vi aspettano. Parliamo anche di numeri, Luca Rinaldi, arriveranno tutti quelli attesi, abbiamo sentito di tutti. Oggi sul Fatto Quotidiano, che sta sparando veramente a zero contro l'Expo, si legge 1 milione di cinesi, secondo l'Expo i visti sono 13.000. Forse ci vuole un po' per capire quanti arriveranno veramente, o secondo te possiamo già intuirlo quantomeno? Ma ci vorrà sicuramente un po', perché si parlava nei giorni scorsi degli 8, 10, 12 milioni di biglietti venduti. Per quel che sappiamo noi, sono una cifra, diciamo così, di biglietti che sono stati anzitutto ceduti in prima battuta ai broker. E questi broker, diciamo così, che sui numeri hanno un po' di sui numeri sul venduto hanno un po' di acqua in bocca quando sono stati contattati, diciamo, non sono stati disponibilissimi intanto i primi ascoltatori che stanno scrivendo stanno scommettendo sull'ultimo giorno, sull'ultimo giorno quando ci scenderanno. Ma qualcuno scrive pronto no, fruibile sì. Beh, Anche questa è un po' la linea Pisapia, insomma. Sì, vi facciamo entrare e poi vediamo un po' com'è. Sarebbe già un traguardo, insomma, visto che ci sono gli ex-ottimisti, uno ci prova fino all'ultimo. Gli ex-ottimisti. questa Silvia, tu dove stai con gli ex-ottimisti? Sì, o... ma sì, perché ripeto, a me non importa che sia un è una nuova categoria. Una settimana dopo l'apertura. L'importante è che quando sarà chiuso l'Expo, questi 6 mesi abbiano avuto un senso generale, abbiano portato davvero qualcosa alla città, abbiano aperto un dibattito serio sul tema, che è un tema importante. Sì, questo è vero, ce lo stiamo un po' dimenticando, appunto, stiamo parlando di appalti, di cantieri. Non mi inchioderei sulla settimana è pronto o no, questa non è la vera sfida dell'Expo, secondo me. La sfida è che abbia un senso, e che io ne ho visti 3 di Expo, Lisbona, Hannover e Shanghai, 3 molto diversi. A Lisbona, se si torna adesso sull'area dell'Expo, è una zona che era tremenda della città e adesso è una zona recuperata dove è bello passeggiare, dove c'è il paesaggio giallo che era meraviglioso. Questo è vero, l'ho visto anch'io e su questo hai ragione. E quindi dobbiamo vedere anche dopo cosa succede. Cosa succederà dopo? È un pacchetto molto più grande della gara a chi è pronto prima e dopo la settimana più o meno. Bisogna vedere cosa succede anche con le inchieste, se ce ne saranno delle altre. Mi sembra che adesso, insomma, si sia un po' tirato il fiato, ecco, sia un attimo. Ma tu sei convinta che queste siano davvero delle vetrine internazionali su cui puntare? Ma guarda, sai che non l'ho capito ancora, continuo a domandare. Allora siamo in due, io l'ho chiesto a te, volevo capirlo. Però che io, che sono un visitatore zero. Per il fatto che, ma ce l'hai il biglietto per l'Expo al di là della professione? No, perché devo portarti un marito, che dobbiamo. L'Expo è una bellissima cosa, esempio, per gli architetti, vedere i padiglioni. Qui c'è un ascoltatore che sostiene che il sito si autodisintegrerà 15 giorni dopo la chiusura. Stiamo andando ormai alla fantascienza. Luca Rinaldi, ma vabbè, tu ormai l'hai visto tante di quelle volte, ma andrai a vederlo anche quando non sarà più un cantiere o basta? A quel punto no, ormai una visita gliela dobbiamo, altrimenti non va bene. Però, come dicevo, ma hai anche tu qualcuno da portare? Al momento, qualcuno vuole accompagnare Luca Rinaldi, gli inviti sono aperti, posso farlo, Luca? Sì, facciamolo, dai. Va bene. Che dici? Secondo te si autodisintegrerà il sito? Che ne faremo dopo? Sì, la cosa interessante, come dicevate giustamente voi, sarà il dopo, anche perché, insomma, la partita delle aree ha occupato praticamente i primi 3 anni di tutta la macchina organizzativa, diciamo. Probabilmente chi ha venduto queste aree ci ha fatto un affare più di chi ci ha poi messo le mani dopo. Allora, uno che ha fatto un affare l'abbiamo trovati. Sì, l'abbiamo trovato. E poi il dopo, probabilmente questo sito, insomma, avrà anche qualche difficoltà, diciamo, a configurarsi nel panorama urbano, perché anche le vie d'accesso non sono proprio delle migliori in questo momento, quindi anche lì ci vorrà del tempo che vengano, diciamo così, completate anche le però Silvia non ha tutti i torti, l'Expo dura 6 mesi, sì, Milano, esatto. Si terrà il sito dell'Expo per i prossimi X anni, sì, ci ha guadagnato Milano? Non so se ci abbia guadagnato come città, come reputazione. Secondo me dovremmo, per fare una valutazione più corretta, secondo me bisognerà aspettare la fine dell'evento, però io dico che non ci guadagnerà tutto quello che viene stimato in questo momento. Allora, i nostri ascoltatori consigliano che insieme al biglietto vengano date in dotazione scarpe, elmetto e occhiali antinfortunio per il cantiere, e qualcuno propone che nell'area dell'Expo facciano le Olimpiadi gareggiando intorno ai padiglioni. C'è spazio, Luca, ce la facciamo. Ormai hanno già candidato Roma, quindi no, allora siamo fuori tempo massimo, mi spiace. Però l'idea della corsa attorno ai padiglioni ex Expo, sì, tra l'altro la città dello sport è uno dei progetti che sono rimasti dietro, perché ci sono anche tanti progetti che dovevano essere fatti e poi sono rimasti un po', insomma, il progetto è stato ridimensionato in modo abbastanza importante poi nel corso degli anni. quindi purtroppo la città anche le famose vie d'accesso anche le famose vie d'accesso sono state tra i vari tagli, però ormai ci siamo, perché ormai manca veramente pochissimo, quindi troppo poco per non esserci. Beh, Silvia Brasca ci ha già detto che il biglietto ormai lo sta cercando. Sì, no, ma ci si va, ci si andrà, e spero che visto il tema, visto certe cose, ci si vada. Certo, il rischio, come ripeto, è che sia una, possa essere una baracconata, cioè che la gente vada là sperando. Il rischio c'è, il rischio c'è. Perché poi il tema dell'Expo, che è il cibo, che ci piace molto da quel punto di vista. Ma può essere una gran mangiata, cioè che una va... E mangia un po' di qua, un po' di là, e un bel giro, ecco, del mondo in una giornata. E soprattutto fuori, perché io vedo in certe zone stanno nascendo ristoranti come funghi, sperando di prendere qualcuno che non è sazio dall'Expo. Ecco, questo sarà anche vedere appunto tutta una serie di cose che si stanno aprendo o rimodernando, investimenti che fanno negozi, ristoratori. I nostri ascoltatori si stanno scatenando, e magari nei prossimi giorni facciamo anche uno spazio un po' più ampio, una puntata sull'Expo, perché ognuno ha la sua teoria di cosa ne sarà. Questa della gran mangiata, Luca, potrebbe essere un'idea. Tu sei un po' più serio di noi, però no. Quando parli di Expo, però anche questo ci sta, insomma, in fin dei conti il tema è quello. Sì, esatto, il tema è quello. Infatti mi aspettavo un qualche che spingessero un po' di più anche su questo tema, invece li ho invece visti poco. Molto tiepidi. Esatto, Silvia, esatto. Stai raccogliendo grandissimi successi comunque. 24 mattino. Viva la Rai, mi fa crescere strani, viva la Rai. Cosa ha detto Enrico Mentana? La carriera di un giornalista e la sua cavalcata attraverso gli anni di formazione, informazione e crescita, e poi inevitabile declino, è fatta di scelte. Io lasciai la Rai nel 91, mi sono un po' imposto anche come avversario dei telegiornali della Rai, non penso che avrebbe un senso vedermici tornare, non ha senso nella Rai di oggi in assoluto, perché non si è mai visto un direttore di giornale, o cosa potrei altro fare che non va a votare, insomma non è l'ideale esaltazione del ruolo dei partiti. Ci giocano i bambini mentre tu... Silvia, ma secondo te il tuo direttore è pronto a fare le valigie? Guarda, è un'imboscata, è un'imboscata, ma sono le 6:48 del mattino, confidiamo sul fatto che stia dormendo. No, ma figurati no, che stia dormendo. No, si sveglia presto, fa le interrogazioni presto. Aia. Ho letto che hai in orari. Allora, no, non penso. No. Non penso. Ma forse non finiranno mai di chiederglielo. Non finirà, ma sì, certo, io l'unica cosa che dico è che in genere lui non pensa mai al dopo, una persona, su questo proprio garantisco, lavorandoci dal 92, è che quando fa una cosa fa quella, non ho mai visto prendere una posizione professionale perché è il trampolino per un'altra, ma proprio questo mai. Lui quando fa una cosa fa quella, è molto rapido nelle decisioni, si è visto con i licenziamenti, come cose, quindi decide e fa, ecco, quindi non è, quindi non lo direbbe prima, comunque ce lui, lo troviamo lì all'improvviso, insomma sì, come sono stati tutti gli annunci delle sue cose, sono stati tutti pochi, perché appunto è stato tantissimi anni, non è uno che ha fatto appunto ogni 3 anni cambiasse, quindi tantissimi anni al TG5, ormai sono anche tanti anni, o qualche anno alla 7, insomma no, non è un programmatore della propria professione, questo assolutamente. Ma poi appunto come i suoi pregi, come ti dicevo, forse c'è veramente chi, ci vuole, se mi dici che è sveglio ci vuole, forse non smetteranno davvero mai di chiederglielo, è proprio la domanda che viene, certo, che viene a tutti, vabbè. Certo, perché tanti anni, perché in realtà è abbastanza raro, una cosa del genere, esatto, in genere esatto. dei grandi programmatori di professione. La strada già prevista e tutto quanto, insomma. Sì. Vabbè. Allora, però io invece voglio farvi sentire anche un'altra vocina che siamo andati, così il nostro Lorenzo Nespoli è andato a catturare per noi, che invece sta facendo arrabbiare un po' tutti. Questa è una donna, Io vorrei che il partito vada avanti e quindi reputo che le idee camminano sulle gambe delle persone e reputo che per questo partito ci vogliano idee nuove e anche persone nuove. Silvia, ti interrogo io questa volta, ma tu la riconosci? Sai chi è? No. Luca Rinaldi. Tu sai chi è? A farmela venire in mente, ma non ce l'hai fatta. Eppure dovrebbe essere il nuovo astronascente candidato per il sindaco di Milano. Qualcuno ha già detto che è il nuovo Renzi in gonnella. È Silvia Sardone. Silvia Sardone. Chissà se ci abitueremo a sentirla. È riuscita a far arrabbiare soprattutto la tutti. Voce, perché non ha una bella voce. Ma chissà, magari un bel corso riusciranno anche in questo a prepararla. Si fa di tutto. Silvia Sardone, segretaria del partito a Sesto San Giovanni, stella nascente di Forza Italia, è andata a 8:30 e ha detto che bisogna fare rottamazioni anche in Forza Italia. Apriti cielo. Però è ovunque ormai, sui tutti i quotidiani oggi ci sono interviste, commenti di chi la conosce, chi lo sa, potrebbe essere... Sostituisce il sindaco di Pavia, che in genere quello è il giovane presentabile. Il giovane presentabile, ma è già stato rottamato e quindi... Sì. Era il formattatore, no? Il formattatore, chissà cosa farà la Sardone. 32 anni, per il momento in televisione, che però ci sta, sì. Insomma, intanto per cominciare a fare esperienza. Ma è molto spigliata, se la cava, aggressiva, spigliata, e ha una voce non gradevolissima, ma questo non importa, è una cosa che solo... Imparerà. Notavo proprio che è importante i pacchetti dei candidati, insomma, c'è anche la voce, insomma... Sì, forse un po' meno dei programmi, insomma... Ecco, per il momento è su quello ed è molto aggressiva, vedo che è molto aggressiva, brava, devo dire che se no la noti perlomeno. Ecco, la sì, noti. Sì, sì, in questo devo dire ha fatto centro perché si è davvero fatta notare. Abbiamo ancora un paio di minuti prima che qui ci caccino per il momento e poi torniamo dopo come sempre con la rassegna stampa. Leggo ancora un paio di spunti che sono arrivati dai nostri ascoltatori. Allora, c'è chi è preoccupato per le famose per gli spazi d'acqua dell'Expo e annuncia per luglio e agosto covid di zanzare. Anche questa immagino che possa essere una preoccupazione, perché l'Expo sta pur sempre lì. E poi chiedevano, Silvia, se hanno preparato già anche uno stand delle manette in caso fosse necessario in corso. No, la battuta è brutta, però quella che non è una battuta, non la stand delle manette è triste, proprio perché passando ieri sera la vicinanza tra l'Expo e il carcere di Bollate è abbastanza stridente. Anche questo... E farà molta impressione, perché sono proprio due compound vicino, pensare che quella che io spero, perché sono un ottimista, possa essere una festa d'estate, belle sere d'estate con gente che mangia l'Expo e accanto appunto uno dei posti carcere che sappiamo Bollate. Che nelle città proprio più tristi che il carcere di Bollate. Mi domandavo se anche appunto la direttrice del carcere, molto brava, ha pensato a un respiro comune lì, perché davvero è molto stridente la vicinanza, ti fa pensare. È vero, è vero anche questo. Una Silvia Brasca ex ottimista, abbiamo proprio un'ultima battuta. Luca Rinaldi ex ottimista o un po' meno? Io ci ho provato ma non ce l'ho fatta. Ci ho provato, va bene, ci ho provato. Ancora un caffè per tutti, grazie. Allora Silvia Brasca della 7, Luca Rinaldi l'inchiesta, giornale radio, poi torniamo con la rassegna stampa. 24 mattino. E buona giornata. giornata, buon martedì, buon rientro per chi si è preso qualche giorno di vacanza come il nostro Alessandro Milan. Lo troveremo la prossima settimana, un saluto ancora intanto da Anna Migliorati. Sono qui invece come sempre i quotidiani in edicola e allora è il momento della rassegna stampa. Aperture che variano un po' questa mattina, anche se diciamo il tema centrale è quello del famoso DPEF, il documento di programmazione economica e finanziaria, che torna ancora una volta al primo esame. Si ricomincia per l'ennesima volta a fare i conti, si parla tanto per cambiare di tagli e di spese, ma c'è anche chi sceglie altre aperture. Cominciamo dal Corriere della Sera, che questa mattina ha una lunga intervista, la leggeremo tra pochissimo, al ministro degli esteri Gentiloni: fermiamoli anche con le armi. Il tema è quello della persecuzione dei cristiani, degli attentati, dell'avanzata dell'ISIS. Basta egoismi o ignavia davanti ai massacri dei terroristi, dice Gentiloni, ormai veramente senza mezzi termini, e parla di ipotesi dell'intervento militare. Questa l'apertura scelta da il Corriere della Sera. Il Mondo non sia inerte, titola Avvenire, le parole del Papa, le abbiamo sentite anche in GR24, basta crimini contro i cristiani, più martiri che nei primi secoli. Il quotidiano La Croce, anche qui il mondo non sia inerte, le parole del Papa. Altro tema in discussione in questi giorni, a titolare il Sole 24 Ore di quest'oggi, gli appalti, il famoso codice leggero, un rating per imprese e pubblica amministrazione. Oggi al Senato il testo del DDL delega, con la semplificazione degli articoli ridotti da 650 a 250, e già questo è un passo avanti. Stop alla direzione lavori affidata ai general contractor. Ma dicevamo, carrellata per lo più di aperture dedicate al documento di programmazione economica e finanziaria. La Repubblica, il governo all'Europa, 12 riforme in 2 anni, tagli, sindaci in trincea, corsa contro il tempo a Palazzo Chigi e al Tesoro, tanto per cambiare, per varare DPEF programmazione nazionale di riforme, almeno 12 che il governo ha in agenda. E poi appunto i comuni alzano le barricate contro di nuovo i tagli annunciati agli enti locali. La Stampa: ecco i tagli di Renzi per scongiurare l'aumento delle tasse, 10 miliardi da enti locali, agevolazioni fiscali e sussidi. Oggi venerdì, doppia seduta del Consiglio dei Ministri. Il Messaggero, anche qui manovra, tagli per gli enti locali. Torna l'ipotesi di ridurre le centrali d'acquisto, anche questa non è una novità. E ancora qui, e altra non novità, i costi della sanità nel mirino, scrive il Messaggero. Il Quotidiano Nazionale: salvi gli sgravi invece alle imprese, eviteremo il rincaro dell'IVA spendendo meglio e meno, dice Morando. E anche qui però sindaci in rivolta. Occhio allo spesometro, dice Libero: vacanze, abbigliamento, auto, gioielli, arredamento, insomma controlli fiscali a tappeto per chi si concede lussi, scrive Libero, che titola anche in questo caso però: i sindaci contro Renzi sulle tasse, dici che le abbassi ma costringi noi ad alzarle. Il Secolo XIX, manovra così cala la scure del governo, anche in questo caso. Allora, apertura invece su altri temi per quanto riguarda il Giornale, il Fatto Quotidiano, il Manifesto. Il Giornale: è ufficiale, Expo non sarà completato, ne abbiamo parlato anche noi tra pochissimo. Il sindaco di Milano Pisapia che ammette i lavori non finiranno in tempo per l'inaugurazione. Il Fatto Quotidiano che l'attenzione la punta sull'Aquila: Renzi promette miliardi ma nel 2015 non è arrivato un euro, sesto anniversario del terremoto. Ne parleremo anche noi più avanti, già vi anticipo, avremo ospite questa mattina proprio il sindaco dell'Aquila tra gli altri ospiti, dopo il Giornale Radio delle 8. E poi il Manifesto: si tocca al fondo, il tema ancora la Grecia sul Financial Times. Ministri europei chiedono a Tsipras di accettare il peso di un terzo memorandum e cambiare drasticamente il governo. A un passo dall'eurocrisi, i creditori aumentano la pressione su Siriza. Sul Manifesto anche qui anche l'Aquila: anniversario senza governo, Renzi passa ai fatti ma solo su Facebook. Sentiremo più avanti cosa ne pensa anche il sindaco dell'Aquila Cialente. questa la carrellata delle prime pagine dei quotidiani di quest'oggi, ma andiamo un po' più nel dettaglio, a cominciare proprio dall'intervista sul Corriere della Sera del ministro degli Esteri Gentiloni, che parla ormai fuori dai denti di intervento militare contro l'ISIS, dopo l'appello del Papa, dopo le ultime stragi e quello che sta succedendo anche in queste ore che avete sentito poco fa nel nostro giornale radio. Contro i terroristi tutte le opzioni, pronte anche la scelta militare, così dice Gentiloni. Papa Francesco, gli chiedono, ha condannato il silenzio complice che circonda il massacro di tanti cristiani, ha chiesto al mondo di non assistere inerte, che ne pensa, e lui risponde, bisogna fare di più, ma da anni c'è, dice, un male europeo, quella miscela tra egoismo e ignavia che spinge a voltare lo sguardo dall'altra parte rispetto a ciò che accade oltre il nostro mondo, piccolo mondo antico. Per cui se proponi di intervenire contro il terrorismo fai un errore, se investi in attività di cooperazione e sostegno a favore dei profughi cristiani stai sprecando soldi, se adotti politiche di accoglienza agli immigrati compi una follia. E aggiunge Gentiloni, abbiamo già assistito a quel silenzio europeo 20 anni fa, quando le truppe guidate da Mladic massacrarono 8.000 bosniaci musulmani a Srebrenica. E dicevo, ormai fuori dai denti parla di intervento militare Gentiloni, c'è una verità, per contrastare il terrorismo è inevitabile il risvolto militare, qualcuno potrà scandalizzarsi ma questi gruppi vanno affrontati anche sul piano militare, non userò la parola combattere altrimenti, aggiunge, mi ritroverò nei panni del crociato. Non basta la democrazia, gli chiedono, e la risposta anche in questo caso ormai lascia pochi dubbi, facciamo parte di una coalizione militare anti Daesh non è solo ISIS, è uno sguardo un po' più allargato a tutto quello che sono i vari aspetti dell'estremismo che diventa terrorismo in Iraq e in Siria, dice Gentiloni, ma in futuro si potrebbe valutare l'opportunità di contribuire anche al contrasto del terrorismo in Libia o in Nigeria, i fronti sono tanti. Ciò che sta accadendo, dice ancora Gentiloni, penso a Boko Haram, è che i cupi vessilli neri vengono usati da raggruppamenti differenti come in un macabro franchising del terrore. Quel marchio ha un chiaro impatto mediatico. E allora magari ci torneremo anche nei prossimi giorni. Comunque così intanto le parole di Gentiloni. Sulla Repubblica invece è riportata a lunghi stralci di un'intervista che il presidente americano Obama ha dato ieri a diversi media e che riguarda anche un altro fronte, perché il tentativo invece americano è quello di appunto provare ad accerchiare, a dare un'alternativa in qualche modo all'ISIS. Gli Stati Uniti con Israele, ma l'intesa con l'Iran non cambia. Stralci di questa intervista la trovate sulla Repubblica quest'oggi. L'intesa con l'Iran, dice il presidente americano, invia un messaggio all'intera regione. Chi lancerà nuove minacce se la vedrà con gli Stati Uniti. L'America deve essere consapevole di poter assumere qualche rischio per cogliere nuove opportunità. Ci impegneremo negli accordi conservando tutte le nostre capacità di rispondere a chi non rispetta i patti. Insomma, un po' la politica della carota e del bastone in un'area che è sempre più complessa. Svolta che diciamo rapporti complessi e complicati che non solo gli attentati ce lo ricordano, non vengono solo da fuori ma riguardano anche l'interno ormai delle società europee. Una curiosità su tutte, ma che poi non solo curiosità è ma dice molto anche nel concreto, arriva dalla Francia colpita. Parigi, il metro accetta lo spot per i cristiani, leggiamo dal quotidiano torinese La Stampa. Era successo che era stato vietato uno spot in nome della laicità, per cui uno spot che in qualche modo difendeva i cristiani, parlava dei cristiani in metropolitana, era stato vietato a Parigi. Ci è voluta quasi una settimana, poi la retromarcia, leggiamo pagina 11 della Stampa, la scritta a favore dei cristiani di Oriente comparirà di nuovo sui manifesti che annunciano un concerto nella capitale francese, era stata cancellata perché si riteneva la metropolitana uno spazio neutro, se non che proprio in questi tempi con massacri di cristiani un po' ovunque, dal Califfato al Kenya alla solita Nigeria, questa applicazione burocratica della legge era apparsa a molti un capitolo ormai della sottomissione della vecchia Europa alle minacce degli islamisti. Allora Parigi ha deciso, torna la pubblicità pro-cristiane nella metropolitana. 24 mattino. E dunque ci siamo, ce lo ricordano i quotidiani di questa mattina in edicola, siamo di nuovo all'approvazione come ogni anno del DEF, il documento di economia e finanza, leggo dal Corriere della Sera, il DEF e il PNR, il programma nazionale di riforme, in pratica il piano economico per i prossimi anni. Si riunirà a doppia seduta oggi e poi venerdì il Consiglio dei Ministri, dicevo ci risiamo perché il taglio centrale del Corriere della Sera lascia davvero molti dubbi su quel che oggi verrà approvato. Le anomalie italiane, scrive Enrico Marro. Le previsioni sul nostro PIL sgonfiate dalla realtà, 14 punti in meno dal 2008. Si parla di previsioni, ovviamente. Previsioni sul prodotto interno lordo che, scrive, verranno approvate tra oggi e venerdì e che si riveleranno puntualmente sbagliate e saranno corrette. Succede sempre così, scrive Enrico Marro. L'Italia è il paese però in cui il divario tra il dato reale e le famose previsioni che approveremo è più ampio, 14 punti in meno dal 2008, e se avessimo avuto questi 14 punti in più forse saremmo davvero ad un altro punto. E allora la domanda è un po' a cosa serve, visto che insomma 14 punti in meno dal 2008 non sono poche, previsioni del nostro PIL sgonfiate dalla realtà, così scrive oggi il Corriere della Sera. Ma intanto c'è, già prima che arrivi, la protesta, sindaci in trincea, vi dicevo è l'apertura della Repubblica, la Repubblica, dove andiamo nelle pagine interne, perché a protestare è già il presidente dei sindaci, che è Fassino. C'è già stato un incontro prima del DEF, negli ultimi 6 anni si è chiesto troppo ai comuni, dice, poco ad altre amministrazioni pubbliche, abbiamo contribuito al risanamento con oltre 17 miliardi di euro, i ministeri che fanno, insomma, si è pronti nuovamente al balletto. E chi intervista Fassino glielo chiede, la risposta è: con il governo è necessaria una discussione a monte prima che decisioni e cifre diventino immodificabili, anche perché in questi anni sono stati i comuni a contribuire. Non vogliamo un euro in più, giura Fassino, vedremo. Voglio invece che la forbice si fermi. Allora, qual è la ricetta dei sindaci? Attenzione, perché ritorneremo in questi giorni, si ricomincia, chiediamo, dice Fassino a pagina 3 della Repubblica, una svolta basata sul binomio tra responsabilità e autonomia. Lo Stato fissi dei macro obiettivi, deciderà ogni comune come fare. Misure utili a Torino non è detto che siano opportune a Napoli o a Venezia. Non è una posizione nuova, ricominciamo e magari sbaglieremo ancora le previsioni, come diceva invece il Corriere della Sera. Di sicuro non entrerà, e allora andiamo anche a guardare nelle pagine interne con qualche curiosità in più. A bilancio di sicuro c'è quel che ancora non può andare, il caso, così titola la Repubblica, siamo a pagina 19, un'iniziativa bipartisan, anche questa ogni tanto torna, di 70 parlamentari, regolamentiamo la prostituzione, così qui raccogliamo soldi, quartieri a luce rossa e bordelli autogestiti, cambiamo la legge Merlin, le luci le dovranno avere la partita IVA e versare le tasse sugli incassi. In Parlamento c'è l'ennesima proposta per raccogliere soldi anche così, ma intanto che è successo, e questa invece è una storia più che concreta, la Lady Pantera vince la battaglia contro il fisco, la commissione tributaria dà ragione al trans dei VIP contro l'agenzia delle entrate, non deve pagare, perché non è riconosciuto come lavoro e quindi come tassabile, ufficialmente disoccupata, ma con 343.000 euro sul conto. I giudici l'assolvono, nessuna norma disciplina quei redditi. Così, pagina 19 della Repubblica. Per ora da qui di sicuro non arriveranno altri incassi. E allora, sentite un po' invece cosa ha deciso di fare la Gran Bretagna per tagliare i costi. La novità, allora andiamo sulle pagine, in questo caso della Stampa. Pensioni all'inglese, chissà se ci starebbero gli italiani. A 55 anni incassi tutto in un colpo. Ieri è entrata in vigore la riforma delle pensioni decisa dal governo di David Cameron. Chi ha più di 55 anni può decidere di andare in pensione incassando l'ammontare delle somme accantonate dallo stipendio nel periodo di lavoro, senza più essere costretto a lasciarlo al chi si occupa così della sua pensione, che garantiva in cambio un'erogazione annua per tutto il resto della vita. In sostanza, la pensione non l'avrete, ma a 55 anni si può starsene a casa e ricevere tutto quello che si è versato. Il governo ci guadagnerà, scrive La Stampa, perché nei prossimi 5 anni incasserà 4 miliardi di tasse dalle somme ritirate, perché attenzione, poi questi soldi vengono tassate. Ma c'è chi teme che alcuni pensionati possano finire vittime di truffatori che provengono investimenti fasulli, e c'è chi prospetta in Gran Bretagna, vedremo pensionati in Ferrari ma poi indigenti, e così, chissà, una via anche questa per far quadrare i conti. Di sicuro i conti che non quadrano sono quelli, ancora una volta, delle inchieste, dell'ultimo filone di inchiesta partito da Ischia ma che ormai si sta allargando, la nuova inchiesta sulle tangenti. Allora torniamo ancora sul Corriere della Sera, prima pagina, perché eccoci, spunta il testimone ministri nella rete di Simone, così il racconto ai magistrati, scrivono Fulvio Buffi e Fiorenza Sarzanini. C'è un altro testimone nell'inchiesta dei PM napoletani sulle tangenti che sarebbero state pagate dalla CPL Concordia, è un manager che a verbale parla di ministri politici e amministratori pubblici nella rete di Simone. Così, tra le varie intercettazioni, parla Diego Solari, responsabile commerciale della CPL, dice: Simone mi ha sempre bypassato, posso dire che da quando è diventato consulente lo spettro dei rapporti istituzionali della CPL si è allargato. Simone nasce come segretario di Bobo Craxi, la CPL è una realtà commerciale molto radicata politicamente, rimasi molto sorpreso nel vedere che loro della CPL dialogavano con ministri politici, amministratori di tutti i livelli. Staremo a vedere se scopriremo quali. I segreti del super manager Coop, altri 30 appalti nel mirino, scrive anche La Repubblica. Simone voleva fuggire in Tunisia. Ho chiamato te che sei potentissimo e supremo, e queste sono intercettazioni. Ora si scopre che lo adulavano così al telefono, perfino per ottenere una sua intercessione per una nomina. E lui, Francesco Simone, ex capo delle relazioni istituzionali della Coop Concordia, si avvertiva e schermiva: se ci intercettano arrestano te e me. Beh, forse una facile previsione, ma quando si parla di intercettazioni si parla anche di intercettazioni pubblicabili, e allora ecco, ancora una volta, anche questa una discussione che si trascina da tempo, si torna a parlare anche della possibilità di pubblicarle queste intercettazioni, quindi per noi di scriverle ma anche per voi ovviamente di leggerle, quindi per l'opinione pubblica di essere informata. Pagina 5 della Repubblica, parla il garante della privacy Antonello Soro. Intercettazioni tra diritto delle indagini, diritto di informare, diritto alla privacy, dice Antonello Soro, dal 2012 garante della privacy, la questione va avanti da anni, ma è necessario un riequilibrio. Allora, c'è chi dice che questi appelli arrivano solo quando ci sono politici coinvolti, glielo chiede Liana Milella su Repubblica, giura che Lupi e D'Alema non c'entrano, assolutamente no, assicura Soro, la lettera Renzi non parte da loro ma dal fatto che Commissione Giustizia della Camera c'è la delega sulle intercettazioni. E quindi chiedete che si pubblichino meno intercettazioni? Bisogna puntare a un bilanciamento dei diritti, dice il garante, facendo appello a un'Italia matura che difende il diritto dei cittadini di sapere, ma senza sacrificare il rispetto della dignità della persona. Sta di fatto che la storia delle intercettazioni rispunta quando di mezzo c'è la politica. È ancora la domanda. Io non ho affatto dormito in questi anni, risponde Soro. La sua proposta qual è? Intercettazioni irrilevanti non dovranno essere trasmesse nel processo. Ce ne possono essere di contesto, utili nella fase dibattimentale, ma non è necessaria la trascrizione integrale. E allora, si potrà pubblicare? Risposta spetta al giornalista valutare. E qui torniamo al punto. Quando si parla di inchieste, si parla di intercettazioni, si parla anche però di appalti, del nodo centrale della questione. Del nodo centrale della questione, che non è solo cosa si pubblica e cosa si intercetta, ma anche ovviamente cosa succede a monte. Allora ecco che all'esame non c'è solo il testo sulle intercettazioni, ma anche quello che riguarda gli appalti. Il Sole 24 Ore ce ne dà un resoconto questa mattina. Appalti, un codice leggero. Innanzitutto la semplificazione degli articoli, ridotti da 650 a 250 nel testo del DDL delega che oggi arriva al Senato, e poi un rating per imprese e pubbliche amministrazioni con lo stop alla direzione dei lavori affidata ai general contractor. Le imprese che hanno sempre rispettato i termini contrattuali potranno avere un premio di qualificazione degli appalti, criteri reputazionali insieme al rating di legalità sono tra le novità, scrive oggi Il Sole 24 Ore. Passo indietro necessario, scrive Giorgio Santilli, che aggiunge: è possibile ridurre il perimetro della sfera pubblica garantendo e rafforzando alcuni presidi fondamentali che garantiscano risultati più efficienti? Domanda da $1 milione. Ma quando si parla di Sole 24 Ore spunta, come sempre, il nostro Mauro Meazza. Eccoti. Buongiorno, naturalmente un saluto con tutti coloro che hanno potuto proseguire le vacanze. Invece a non facciamo nomi, nomi. No, assolutamente non facciamo noi nomi. Non lo citiamo, non c'è, è in vacanza. Alcuni sono in vacanza, altri meno. Ad nessuno esempio, avrà capito di chi stiamo parlando. I giocatori dell'Inter, ad esempio, hanno avuto delle vacanze invece molto intense. No, tu non lo sai, naturalmente non ti occupi di queste piccinerie per lo più maschili. Dai. Volevo segnalarti che sul Sole 24 Ore di oggi, a parte che devi sapere, Anna, è martedì. Tutti e questo ci siamo. Confermiamo che è martedì, lo possiamo confermare. Ecco, perché tutti i martedì c'è sul Sole 24 Ore una pagina dedicata alle questioni del condominio. Allora, anche oggi, essendo martedì, c'è una pagina dedicata alle questioni del condominio tra le pagine appunto di norme e tributi. Parliamo questa volta di prorogatio, di proroga dell'amministratore. Questo tanto per stabilire che le cose proseguono, come dire, con una loro normalità. Ti inviterei invece per chi non è in vacanza, ovviamente. Questo per chi non è in vacanza. Ti inviterei invece a riflettere con attenzione sulla spending review che questa settimana, tra oggi e venerdì, dovrebbe prendere corpo. Servirebbero 4-5 miliardi più o meno. Non è che tu hai qualcosa da abbiamo sempre l'eurino di Milan, però, Ma questi due orini possiamo passare uno con l'altro. I due orini di Milan li ha lasciati qua, per cui c'è una spending review da attuare, ma poi ci sono anche i problemi della Grecia, che pure questa settimana i nodi greci che vengono al pettine, come si potrebbe dire, perché entro il 9 di aprile, che poi è dopodomani, bisognerebbe rimborsare già una quota da parte di Atene, e vediamo come due eurini anche loro. Due eurini anche da parte dei greci, naturalmente. A proposito di eurini, invece, su Finanza, la nostra notizia più importante nelle pagine di Finanza e Mercati, l'ammontare complessivo dei dividendi pagati da Piazza Affari, dalla Borsa di Milano, che quest'anno supera i 15 miliardi, quindi è una buona notizia rispetto all'andamento dello scorso anno. E vorrei proseguire con due notizie diciamo buone. Questa dovrebbe essere una settimana decisiva, possiamo dire decisiva, anche se non c'è il titolare. Non c'è il titolare. Ecco, decisiva, non c'è il titolare. È potrebbe essere la settimana decisiva per la vicenda dei dirigenti del fisco, come sai, fermati da una sentenza della Corte Costituzionale, ne parliamo nelle pagine di Norme e Tributi, potrebbe già oggi esserci un decreto legge per dare un rimedio alla situazione, c'è praticamente un vuoto che riguarda centinaia e centinaia di dirigenti nominati ma in assenza di concorso, e quindi si vedrà come la cosa prosegue. E poi oggi è sempre martedì, mi confermi? Anna, sempre confermiamo, confermiamo, è martedì. Molto bene, allora se è martedì, ma oggi non è un martedì qualsiasi, perché è in edicola il secondo numero del nostro mensile dedicato a fisco, contabilità, bilancio, diritto societario, cioè Norme e Tributi mese, ed è in edicola insieme naturalmente al quotidiano Al Sole 24 Ore, ma tutti i particolari non sono in cronaca naturalmente, ma sulle pagine di Norme e Tributi. Allora, e poi per chiudere, cara Anna, ti rubo ancora un minuto per dirti che c'è un'interessante pagina curata in gran parte dal collega Maurizio Caprino, in cui si parla di leasing, noleggio delle auto, e anche di multe. Attenzione, quando si paga la multa con l'anticipo per avere un conto, non fate confusione, non facciamo confusione con le spese di notifica, perché altrimenti si rischia di fare un pasticcio. Ma tutto questo te lo spiega Maurizio Caprino sulle pagine del Sole 24 Ore. Però io volevo chiederti di informare anche tutti quelli che a questo punto sono pronti ad uscire di casa per andare all'edicola. E per dirgli se possono trovare o meno, immagino, code, sulla loro code, strada, code. Che cosa potrebbero trovare? Forse del traffico. 24 mattino. 7:46 minuti 30 secondi, ancora tempo per farvi arrabbiare un po'. E allora andiamo anche a parlare di partiti di politica, prima di chiudere dei quotidiani di oggi. Il Messaggero, ecco qua. La soluzione è pronta. In arrivo l'albo dei partiti DOC con nuove regole. Un altro disegno di legge, un'altra riforma in campo, scrive il Messaggero. Arrivano i partiti col bollino blu o la garanzia DOC, che sarà assegnata ai partiti che accetteranno di darsi una personalità giuridica e dunque di sottoscrivere una serie di garanzie e controlli. Il PD prepara il DDL di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Ci sono ancora articoli non attuati della Costituzione, ce ne sono tanti, uno di questi è appunto il 49, e non è un certo un caso, scrive oggi il Messaggero, che una legge sui partiti, così come una legge sui sindacati, non è mai andata in porto dal 1948, nonostante l'articolo 49 della Costituzione. Ora però potrebbe essere pronta. Ebbene, che dice? I partiti con personalità giuridica dovrebbero iscriversi ad un albo, che però non sarebbe controllato dai prefetti per evitare intromissioni del governo, ma da commissioni di esperti su modelli già esistenti per le società commerciali. È chiaro che i partiti DOC dovranno assicurare alcune condizioni di particolare democrazia interna, statuto con regole chiare, trasparenza sui finanziamenti e tutto questo, però, secondo questo DDL, attenzione, solo su base volontaria. Così scrive oggi il Messaggero. Allora, a proposito invece di politici, di base volontaria e soprattutto di rinnovamento, c'è chi ha fatto arrabbiare e parecchio Forza Italia, è quello che dovrebbe essere il nuovo volto del partito di Berlusconi. Andiamo nelle pagine interne, in questo caso del Corriere, pagina 10, le giovani rottamatrici azzurre che difendono la Sardone, le critiche romani sulla 33enne di Forza Italia che ormai sta sbancando in TV. Deve succedere anche in Forza Italia come è successo nel PD con Renzi e nella Lega di Salvini, da rottamare non il leader Berlusconi ma invece i dirigenti del partito, così Silvia Sardone. E scrive Andrea Senese sul Corriere della Sera, qualcuno azzarda che alla fine proprio la Sardone da Sesto San Giovanni potrebbe correre per Palazzo Marino come candidato sindaco di Milano, anche se ci si affretta a dire queste cose le decide Berlusconi. Sardone che spopola in TV e ormai anche sui quotidiani, tant'è che anche sulla Repubblica c'è un'intervista dico in TV quello che non va, ma i vecchi del partito fanno come le mogli tradite, così dice su Repubblica. Perché ce l'hanno tutti con lei? Fanno passare me per polemica, ma sono i nostri dirigenti che continuano a litigare per spartirsi le ultime poltrone. Dobbiamo saper creare un'alternativa moderata. Salvini, dice Silvia Sardone, ha lanciato un'OPA su Forza Italia. L'ex cavaliere delle responsabilità risponde: dobbiamo costruire una dirigenza alternativa invece di continuare a fare polemica. La gente di queste cose non interessa nulla. Così Silvia Sardone. E intanto in tutto questo la teoria di Repubblica, o meglio di Ilvo Diamanti, sulla Repubblica di quest'oggi è la solitudine di Renzi. Scrive Ilvo Diamanti: la Forza Italia si sta decomponendo un giorno dopo l'altro, era sorta oltre 20 anni fa una federazione di gruppi di pressione e di interesse distribuiti sul territorio, raccolti intorno a Silvio Berlusconi, alla sua immagine, ai suoi media, alla sua impresa, un partito personale che oggi un pezzo dopo l'altro si sta decomponendo perché non c'è nulla in grado di tenere insieme i pezzi, manca la colla, l'identità e insieme le risorse. Un processo analogo però si sta riproducendo negli altri partiti sorti nell'epoca berlusconiana, resta solo Matteo Renzi. Così Ilvo Diamanti sulla prima pagina a quest'ora della Repubblica. E allora bisogna consolarsi come andiamo sulla pagina del Giornale. Più che tagli, la Boldrini fa shopping e regala 200 frigoriferi ai deputati. Così scrive quest'oggi il Giornale. Andiamo a pagina 6 del Giornale. Che succede? Al parlamentare potete togliere tutto, ma non negargli il minibar, una bibita fresca a portata di mano, un bene primario per il deputato assetato. In tempi di crisi gli italiani sono costretti a stringere la cinghia, ma la classe politica si è imposta tagli drastici e sacrifici, ma evidentemente gli ultimi appalti dichiarati dalla Camera è stato registrato l'acquisto di soli 200 minibar. Questi sono i tagli, scrive il Giornale. In pratica meno di un minibar a disposizione ogni 3 deputati. La fornitura di 200 frigobar monoporta di colore marrone ha avuto il via libera alla fine di dicembre ed è stata resa pubblica il 12 gennaio. 200 pezzi acquistati al modico costo di 43.200 euro. Evidentemente la crisi morde, scrive così il Giornale. Come negare un minibar? Questa un po', insomma, l'ultima polemica del Giornale. Questi temi principali, c'è però molto altro di cui parlare. Ancora qualche minuto ce l'abbiamo, sì. Allora andiamo a cercare anche nelle pagine interne ancora del Corriere della Sera, perché c'è un'altra vicenda che lascia veramente allibiti e che riguarda i farmaci. Oggi tra l'altro è la giornata mondiale della salute, l'abbiamo sentito anche poco fa in GR24. Ebbene, che succede però? 70 milioni di farmaci bloccati per i bollini difettosi, scrive oggi il Corriere della Sera. I problemi sono quelli della colla, perché il poligrafico non li stampa più. Anche le ultime bobine arrivate dallo stabilimento di Foggia sono difettose. La carta adesiva a triplo strato si scolla, sarà impossibile utilizzarla per stampare i famosi bollini, quelli che si applicano sulle scatole dei medicinali prima di portarli nelle farmacie. Ebbene, l'Istituto Poligrafico dello Stato, titolare per legge alla produzione, ha già accumulato un ritardo enorme, 70 milioni di contrassegni, equivalenti ad altrettante scatole di farmaci, che languono negli stabilimenti dei produttori. E la situazione, considerando pure l'incidente della carta, non sembra destinata a migliorare rapidamente. La carta difettosa è un guaio serio, ma il problema è un altro. Normalmente il poligrafico, che a tutti gli effetti è rimasta l'unica azienda manifatturiera interamente controllata dallo Stato, produce solo una parte dei bollini che vengono stampati ogni anno. Il resto viene acquistato da fuori e se è difettoso, ebbene, che succede? 70 milioni di farmaci sono bloccati per i bollini difettosi. Anche questo accade. L'Aquila, 6 anni fa il terremoto, eravamo qui a raccontarvelo. 6 anni dopo, che succede? Torniamo ancora sulla pagina del Sole 24 Ore ci titola, l'abbiamo detto prima, è anche il Fatto Quotidiano: Renzi promette miliardi, nel 2015 non è arrivato un euro per l'Aquila. Siamo lì ancora a parlare, ma non c'è solo la ricostruzione. Il Sole 24 Ore, Mariano Maugeri è andato a vedere che succede. L'Aquila ancora città fantasma, solo in 50 sono rientrati in centro. I soldi ci sono, ripetono a 6 anni dal sisma. Matteo Renzi e il sindaco Massimo Cialente, leggiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, nulla da obiettare se insieme ai soldi non ci fossero una serie infinita di stranezze, sospette coincidenze e una sequela di inchieste giudiziarie, l'ultima delle quali coinvolge l'ex comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri e l'ex city manager del sindaco. I passi falsi compiuti in questi anni dalla triade che governa la città, così scrive Mariano Maugeri, il sindaco Cialente, la senatrice Stefania Pezzopane, l'ex deputato PT, ora vicepresidente della giunta regionale Lolli, non si contano. E intanto in 50 sono rientrati all'Aquila. Ne parleremo allora, ne parleremo tra pochissimo, perché avremo ospite proprio il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Vi lascio solo con un ultimissimo spunto di riflessione, sempre dal Sole 24 Ore, perché parliamo tanto d'Italia, non ci siamo solo noi. Torniamo ancora alla sicurezza aerea, all'incidente in Francia. Dovevano essere tedeschi i controlli. Ebbene, Giuseppe Chiellino scrive sul Sole 24 Ore di oggi: nel 2011, quando proprio bisognava controllare il famoso copilota, quella compagnia era stata inserita dalle autorità europee nella lista nera da cui poi era uscita, senza che le cause fossero state eliminate. Uscita per volere di chi? Dal direttore generale dei trasporti europei, che era un tedesco. Il capo di gabinetto del presidente Barroso, anche lui era un tedesco. Il tecnico che doveva occuparsene, anche lui era un tedesco, scrive Giuseppe Chiellino. Sarebbe terribile anche solo il dubbio che, presidiando le poltrone giuste, qualcuno possa diventare più uguale degli altri. Non fa bene all'Europa, anche se ha trazione tedesca. 24 mattino. Minuti, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Lasciamo Alessandro Milan alle sue vacanze. Intanto io vi chiedo 349-238-6666, ne avete approfittato anche voi per un assaggio di vacanze in questo Ponte Pasquale? Possiamo cercare di capire come andranno le prossime vacanze. Il sito americano BuzzFeed, uno dei più visti al mondo, con circa 200 milioni di utenti unici al mese, ha pubblicato in questi giorni una galleria fotografica, 39 motivi per cui l'Italia è il posto peggiore. Non spaventatevi, non cominciate a parlare di boicottaggio, perché invece la frase è assolutamente ironica. Ci sono in realtà 39 immagini con scenari mozzafiato, architettura, monumenti, mare, ovviamente il cibo, e la conclusione è: l'Italia è bellissima. Chissà se sarà stato questo a spingere il turismo americano, visto che forse a quello dobbiamo aggrapparci. Un bilancio positivo a Pasqua per gli operatori turistici, grazie soprattutto agli stranieri, in particolare agli statunitensi, agevolati dal dollaro forte, scrive oggi tra l'altro il Sole 24 Ore. Insomma, vacanze, cominciamo a pensarci, dove andare, come andare, ci andiamo soprattutto in vacanza? E poi già ve la butto lì, ci sono posti dove invece non pensate di non andare quest'anno perché è successo qualcosa, perché qualcosa vi ha fatto cambiare idea? 349-238-6666. Innanzitutto io saluto Alessandro Nucala, direttore generale Federal Alberghi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, ci sono andati gli italiani a fare questo assaggio di vacanza? Davvero 8 su 10, come dicevate, sono rimasti a casa? Sì, purtroppo il dato sulla domanda italiana è questo, ed è ovviamente un dato non confortante. Teniamo conto anche della circostanza che le vacanze di Pasqua sono delle vacanze brevi, quindi non è che normalmente si muova il 90% degli italiani e quest'anno si siano ribaltati i dati, però il dato è sicuramente non positivo, compensato, come dicevate voi, invece da un mercato straniero che ci premia. Gli statunitensi sono nostri clienti affezionati da tempo, ogni anno 12 milioni di presenze di clienti statunitensi negli esercizi ricettivi italiani, e questo è uno dei tanti segnali del fatto che l'Italia sul mercato internazionale regge bene, vende bene, abbiamo... Ma questo assaggio, diciamo così, ripresa vista da lontano, cioè la sentite o no? Noi l'avvertiamo con chiarezza sul mercato straniero, una parte del mercato straniero. Dobbiamo ricordare che accanto al dollaro forte, un mercato americano in ripresa, abbiamo un rublo debole e un mercato russo, purtroppo anche a causa di eventi che prescindono dall'andamento delle monete, in questo momento che fa fatica. Quindi i mercati stranieri non sono tutti gli stessi, ma vediamo ripresa consistente sui mercati stranieri che ci danno buona fiducia per il futuro, e invece continua preoccupazione sul mercato italiano. Allora, gli ascoltatori intanto ci scrivono: l'Italia è veramente il posto più bello del mondo. Abbiamo visto in questi giorni anche le solite immagini in questo periodo di Angela Merkel, era a Ischia. I tedeschi ci sono? Sì, i tedeschi ci sono. Sono il nostro principale mercato straniero. E quindi anche qui è giusto guardare la Cina, è giusto guardare i BRICS, quindi è giusto guardare al mondo che cresce. L'anno scorso per la prima volta abbiamo toccato la soglia dei 2 miliardi di viaggiatori internazionali, quindi un numero incredibile di persone che si muovono, ma non dobbiamo dimenticare quali sono i nostri principali mercati. Sul mercato straniero i tedeschi sono i primi, fino a poco tempo fa l'Italia era il nostro principale mercato, cioè più del 50%. Gli italiani, e adesso dove andiamo invece? Adesso, non è che gli italiani non vadano in Italia e vadano altrove, come giusto che sia vanno anche altrove, ma gli italiani stanno purtroppo viaggiando meno. Stanno viaggiando meno, è inevitabile chiederglielo, visto che ormai ci siamo quasi, si sente un effetto Expo o no? Noi guardiamo con fiducia all'Expo, soprattutto per quel che sarà in termini di capacità di proiettare all'estero un'immagine di un paese efficiente, di un paese ospitale. Al momento c'è ampia disponibilità nelle strutture ricettive italiane per tutto il periodo dell'Expo. Ci sono dei periodi di picco, probabilmente qualcosa in prossimità dell'apertura, quindi al primo di maggio, ci siamo quasi. Una presenza più intensa nelle fasi di chiusura, quindi a fine ottobre, ma tutto il periodo che va da maggio fino a ottobre, in questo momento nelle strutture della Lombardia, di Milano, e non solo, c'è ampia disponibilità. Domanda inevitabile, gli nostri ascoltatori già lo scrivono, ci sono i prezzi all'estero, forse a volte costa meno andare. È ancora così cara l'Italia? Guardi, noi, l'Italia c'ha in questo momento 35.000 ricettivi, alberghi, diciamo, per essere sintetici, 1 milione di camere, 2 milioni di posti letto, e ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. E per tutte le tasche. Da questo punto di vista non dobbiamo essere, come dire, tranchant. Vedevamo su alcune manifestazioni concorrenti, perché in questi giorni ovviamente l'attenzione su Expo è forte. Se guardiamo i prezzi che ci sono stati l'anno scorso sul Mobile World Congress di Barcellona, o per venire a un evento più ricorrente, quello che accade a Monaco, Oktoberfest, allora, siamo molto più su di quel che normalmente accade. Io però ho stuzzicato i nostri ascoltatori 349-238-6666 chiedendovi anche se ci sono dei posti dove avete deciso invece di non andare, perché è successo magari qualcosa, perché qualcosa vi ha fatto cambiare idea. Perché io saluto allora anche i nostri altri ospiti: Silvia Godelli, assessore al turismo della Regione Puglia, buongiorno. Buongiorno. Paolo Corchia, presidente dell'Alberghi Toscana, ma titolare soprattutto di un hotel a Forte dei Marmi. Buongiorno. Buongiorno. Perché le ultime immagini che abbiamo in mente sono quelle anche di posti dove magari qualcosa è successo che ci ha fatto cambiare idea. Abbiamo lasciato le vacanze estive con le immagini della spiaggia di Peschici con le alluvioni e solo un mese fa, se non sbaglio era proprio il 5-6 marzo a Forte dei Marmi, i vari pini abbattuti, insomma quelle immagini di un Forte dei Marmi, una Versilia che forse non sono l'obiettivo migliore. Corchia, le chiedo, come va un mese dopo? Bene. Direi sicuramente il paese ha presentato il suo aspetto solito. Beh, siamo solito, ma si vedono, se non sbaglio, per strada tronchi ovunque pronti per essere venduti. Insomma, quelli non ci sono più. Sono stati ammassati e di fatto l'unità di crisi immediatamente ha risposto insieme alla protezione civile, credo nel migliore dei modi. È chiaro che il paese è stato ferito, abbiamo avuto un danno grave dal punto di vista ambientale, una ferita profonda a quella che è la bellezza del forte, che richiederà tempo per essere sanata, ma le strutture erano a posto, la spiaggia non è stata toccata per fortuna dall'uragano e tutte le strutture alberghiere e commerciali erano a posto. La spiaggia di Peschici invece, Silvia Godelli, la spiaggia di Peschici com'è? Da voi sono passati un po' di più, sono passati circa 7 mesi. Eh sì, ma il Gargano è lungo decine e decine di chilometri, centinaia per la verità, e se un punto piccolo di un chilometro ha subito ovviamente degli impedimenti a essere fruito, e anche qualche altra zona vicino interna, questo ci addolora profondamente, ma non mette a repentaglio la qualità complessiva dell'offerta. Noi siamo prudenti, allora monitoriamo, abbiamo fatto fare una verifica a SWG, sappiamo che è una delle principali società d'indagine, su un campione di 2.000 turisti italiani e 7.000 turisti europei, la Puglia per le vacanze estive del 2015 è la regione di testa. Questo vale per gli italiani, vale per gli europei e vale per tutti i territori delle zone marine, ovviamente a partire dal Gargano. Vi abbiamo lasciati a settembre con grandi dichiarazioni di riassesto idrogeologico da ripensare dopo l'alluvione. Il riassetto idrogeologico dura anni se non addirittura decenni, investe tutta l'area territoriale comprese le zone interne, riguarda tutta l'Italia purtroppo, da Genova alla Calabria, alla Sicilia, alle falesi, alle coste, perché in Italia per decenni si è costruito in modo indiscriminato, non riguarda il Gargano soltanto, né riguarda il sud soltanto. Anzi, certo, ma anche. Anche, ma non solo. Ma il punto è che il riassetto idrogeologico non ha diretta attinenza col turismo, per fortuna, perché il turismo va nelle zone intatte, sane, e come è noto nella nostra regione le zone intatte sono la gran parte del territorio, anche perché sono per fortuna nostra ben 10 anni che facciamo tutela paesaggistica e siamo la prima, anzi l'unica regione italiana ad avere già un piano paesaggistico approvato, quindi una realtà di punta che ci invidiano, allora, anche dalla Toscana. Anche dalla Toscana la invidiate Corchia? Ognuno ha le sue bellezze. Il piano paesaggistico l'abbiamo approvato anche noi con qualche polemica. Tutti bravissimi. L'Italia è così bella che non se la può permettere l'italiano. Così scrive intanto un nostro ascoltatore. 24 mattino. 800 24 00 24, 349 238 6666, telefonate, sms, vi aspettiamo. C'è qualche posto dove non andrete o invece andrete per le prossime vacanze? Avete voluto fare un assaggio in questi giorni? Intanto i nostri messaggi sono un po' tutti puntati soprattutto sul rapporto qualità, bellezze, prezzo. La Puglia mai più per la sporcizia, ci scrive un nostro ascoltatore. Qualcun altro scrive alberghi in posti impensabili con costi folli in Italia, ormai dappertutto. Perché scegliere l'Italia, Alessandro Nucala, per un italiano? Perché a quanto pare, quando ci si trova davanti pacchetti vacanze che costano molto meno all'estero, sembriamo un po' pronti alla fuga. Io bisogna essere provinciali, né in positivo né in negativo. Il mondo si è aperto, quindi sì, come è giusto ed è bello che i turisti stranieri vengano in Italia, è anche bello che i nostri figli, dopo aver visto l'Italia, girino anche all'estero. Quindi non c'è da preoccuparsi perché gli italiani vanno all'estero, non c'è da stupirsi per il fatto che in paesi in via di sviluppo i costi siano di molto inferiori. È vero che l'Italia in passato ha scontato molto più che adesso, a mio parere, un effetto prezzi, ma dietro un effetto prezzi c'è un effetto costi che deriva in primis dalla pressione fiscale, dal costo del lavoro, da una serie di fattori interni alle aziende ricettive, ma non solo, anche infrastrutturali, per cui non è un caso che paesi turisticamente più spinti in questo momento siano paesi che hanno compagnie di bandiera più efficienti, che abbiano sistemi di trasporti più efficienti. Quindi bisognerebbe fare un ragionamento di sistema. Un ragionamento di sistema che tutte le volte però si comincia e poi però, come ci diceva prima l'assessore al turismo della Regione Puglia, non c'entra, ci ha detto Godelli. Ma 10 milioni di euro per il Gargano intanto, per fare anche questione invece di soldi, sono arrivati in questi 7 mesi? Sono pochi sicuramente rispetto al fabbisogno. Ma sono arrivati di rilancio, o no? Materialmente, fisicamente, nelle tasche, nelle tasche, no. Sì. No. Per perché carità, che domanda. Esiste una famosa legge del governo Renzi, non so se la conosce, che si chiama legge di stabilità, che ha bloccato tutte le erogazioni, per cui siamo in attesa. Quindi pochi e non arrivati. Non ci sono, ahimè. Là i problemi sono un po' più seri, quelli del paese. Però per riprendere le previsioni e i costi degli alberghi, noi abbiamo un fortissimo incremento nella fascia alta, un incremento di presenze sui 5 stelle, 5 stelle lusso, molto forte e naturalmente determinati soprattutto dai turisti stranieri, ma abbiamo una fortissima un fortissimo incremento di presenza di tutti i settori di provenienza, compresi gli italiani, nel cosiddetto piccolo e bello. Da noi sono in forte aumento le camere, l'agriturismo, i B&B, i villaggi turistici. Che non è però un modo per dire vado in vacanza lo stesso ma taglio i costi. No, veramente in parte lo è, ma in parte no, perché esistono in questa fascia anche delle offerte turistiche, delle offerte ricettive molto care, molto di lusso, e sono strapiene anche quelle. Diciamo che in Puglia sta vincendo l'idea del piccolo e bello. Del piccolo e bello. Allora, non so se piccolo e bello a Forte dei Marmi, Paolo Corchia. Qui è piccolo e bello perché le strutture non superano i 35 camere a 4, 5 stelle, a 3 stelle. Abbiamo un rapporto. E sulle stelle i nostri ascoltatori si stanno scatenando. Beh, non piacciono, ma quello lo sappiamo. È un discorso lunghissimo. Quale? È anni che chiediamo una classificazione uguale per tutte le regioni toscane, e crediamo che siano valutati diversamente i servizi che gli alberghi danno. Per cui da questo punto di vista sicuramente avremo bisogno di una legislazione che a livello nazionale. Ma è vero che in Italia su questo fronte non si fa sistema? No, non si fa sistema, sono anni che lo diciamo. Ma mi interessava ritornare alla questione di Forte dei Marmi. Sì. Allora è vero che avete questi tronchi ancora per le strade? In alcune situazioni sicuramente sì, ma gran parte dei tronchi sono stati ammassati e il paese si è presentato in una veste nella veste migliore per Pasqua. Le dirò che, tra l'altro, che siamo esattamente in controtendenza con tutto quanto ha detto anche il mio direttore Alessandro Nocara, che saluto. Abbiamo avuto una fortissima presenza di turisti italiani. Oh, da voi sono venuti. Ma esatto, adesso glielo chiedo. In una città che ha amato, in cui sono venuti proprio per quello che è successo. La borghesia italiana è cresciuta su quella spiaggia dove ha giocato da bambini, sono tornati con i figli e con i nipoti. Veramente non ci si muoveva per il paese e gli alberghi erano quasi al tutto esaurito, in una situazione in cui temevamo invece che le presenze italiane non ci fossero. Anche ma è stato l'effetto contrario, cioè dopo l'alluvione, dopo la strada, torniamo a vedere che è successo. Ma non solo, già nelle ville lo sa, noi abbiamo un sistema di ville straordinario con le più grandi famiglie che vivono qui. E stanno già provvedendo a ripristinare il verde, insomma c'è questa corsa a ripiantare piante e consideri che è passato un mese, giusto? È già passato solo un mese, l'aspetto ambientale del Forte è straordinario, abbiamo un sistema mare monti incredibile, non abbiamo mai fatto costruire al di là dei 12 metri d'altezza, si immagini, lei se si affacciava dal terzo del mio albergo vedeva a Roma Imperiale una distesa di pini, che in parte, devo dire, è stata intaccata, ma ancora si presenta. Ce n'è qualcuno, vabbè, le immagini che abbiamo visto sono molti. No, alcuni purtroppo sono crollati e questo è stato sicuramente un danno. come le dicevo prima, che Nucara, gli ascoltatori però continuano a battere il tasto sui prezzi. L'Italia non ce la possiamo più permettere. Sarà per questo che 8 italiani su 10 sono rimasti a casa? Guardi, secondo me i numeri da questo punto di vista la dicono meglio di ogni altra situazione che io e altri possono fare. L'anno scorso 180 milioni di presenze, quindi 180 milioni di notti dormite dagli italiani negli alberghi italiani. E come diceva poco fa Paolo Corchia, gli italiani vanno ad andare in Italia e continuano ad andare in Italia. Purtroppo non possiamo farci gli occhi di fronte a un'evidenza: le persone hanno meno soldi in tasca in questo momento e quindi, a causa di questo fatto, riducono anche la spesa per le vacanze. Non potremmo spiegare diversamente il fatto che i turisti stranieri, che pure hanno davanti a sé una, come dire, gamma di offerta sterminata, continuano a indirizzarsi verso l'Italia. Ripeto, il fattore prezzo, al quale tutti normalmente giustamente guardano nel momento in cui decidono un acquisto, è un fattore che incide relativamente, perché l'offerta italiana è talmente ampia che ce n'è per le piccole tasche, per le grandi tasche. Allora, Davide da Treviso, intanto sentiamo. Vorrei, se mi consente, sì, di dire una cosa sul piccolo e bello, che è sicuramente bellissimo. Vorrei ricordare però che in questo momento il mercato è spesso in qualche modo alterato, disturbato, mi verrebbe da dire. Da cosa? Da un piccolo che non rispetta le regole. Da un piccolo che non rispetta le regole. Davide da Treviso, buongiorno. Guardi, buongiorno innanzitutto a tutti quanti, buona Pasqua per chi ci sente. Beh, ci stiamo un po' così, parlando di vacanze, sì, per prolungare siamo ormai abbiamo finito. Per il bene e per il male del lavoro che faccio, praticamente ho girato per tantissimi anni fondamentalmente in tutto il primo mondo, diciamo così, Europa, Nord America. Le garantisco che praticamente quello che è stato detto poco fa, che i prezzi imbattibili sono dei paesi in via di sviluppo, è una grandissima stupidaggine. Perché guardi caso, lei va a Vienna in questo periodo qui e le costa meno che andare in un paesino sperduto della Toscana. Va a Berlino in aereo partendo dall'Italia e le costa meno un weekend con spa e tutto quanto, a un livello di albergo. Nucara, cosa dice al nostro ascoltatore? Vediamo come... I numeri dicono la stessa. Siccome oggi c'è internet che consente a tutti di guardare, di comparare e di verificare, a Vienna come in Italia, come in tutto il mondo, ci sono offerte di fascia alta come prezzo e come qualità, e ci sono offerte di fascia media come prezzo e come qualità. L'importante è che al prezzo corrisponda alla qualità. E su questo, quanto ha giocato il mercato online, Nucara? Forse non siamo stati così bravi? Siamo stati fin troppo bravi. Siamo, questo lo dice una recente ricerca fatta a livello europeo, siamo sul paese che più efficiente a vendere online, e questo ha comportato anche un effetto sul livello dei prezzi. È aumentata la concorrenza, è aumentata la trasparenza. Noi da qualche punto di vista potremmo non essere entusiasti, invece ne siamo contenti, perché c'è una gran possibilità per chiunque, italiano o straniero, voglia venire in Italia, di affacciarsi a questo mercato e confrontarsi con un'offerta sterminata. Anche qui ci sono dei problemi, perché il mercato online al momento è nato da pochi grandi player, e di fronte alle piccole e piccolissime aziende che costituiscono la gran parte del settore, abbiamo dei giganti che tendono a stritolarle. Per il consumatore è però accaduto che c'è un'offerta sterminata a disposizione, i prezzi, complice anche la crisi, stanno sotto i livelli del 2007, che questi sono i numeri non di Nucara, non di Federalberghi, ma sono i numeri dell'Istat. E quindi da questo punto di vista, ripeto, chi vuole può cercare e scegliere liberamente. Prezzi sì, ma attenzione anche al paesaggio. Ma questa, Godelli, è una nuova tendenza o no? L'attenzione al paesaggio è ormai una tendenza consolidata da parecchi anni. Per ritornare alla regolamentazione a cui faceva riferimento uno degli interventi, noi, proprio per evitare speculazioni e nero, abbiamo fatto una legge sui B&B, una legge regionale che ha una grande efficacia e di 2 anni soltanto, e ha portato una forte regolarizzazione. Ma abbiamo un sistema ancora più efficace: noi abbiamo potuto creare creare un sistema informatizzato che mette in rete assolutamente tutte le strutture, sì, da quelle dell'alberghiero. Però prima diceva Nucara, piccolo non sempre vuol dire che rispetta, no, che rispetta le regole. È proprio qui che andiamo a parare? È proprio qui che andiamo a parare, perché noi abbiamo un sistema di rilevazione automatica, per cui nel momento in cui il cittadino straniero italiano viene registrato, automaticamente abbiamo una trasmissione dati alle questure e alla regione, per cui siamo in grado di monitorare in tempo reale non soltanto i numeri e le quantità, ma anche la qualità e le problematiche relative all'offerta. E per parlare degli italiani, in Puglia nel 14 sono cresciuti per la prima volta dopo anni, ma allora ci sono, ma sono aumentati, sono l'80% dell'affluenza, come sapete la Puglia è una regione fortemente turistica, sono aumentati finalmente. Di poco. Vediamo, è solo un assaggio, come dicevamo, un po' come questo Ponte Pasquale, vedremo cosa succederà, avremo occasione di parlarne ancora. Allora intanto saluto Alessandro Nucara, direttore generale Federalberghi, per essere stato con noi, buona giornata, grazie anche a Silvia Godelli, assessore al turismo della Regione Puglia, Paolo Corchia, presidente Federalberghi Toscana, e a tutti i nostri ascoltatori che invece abbiamo fatto arrabbiare non poco con i nostri, lo vediamo anche dai nostri SMS, parlando di costi di vacanze e di paesaggio. Cambiamo argomento tra pochissimo, perché andremo invece anche all'Aquila, dove sono passati 6 anni dal terremoto, ma qui i problemi restano. E come? 24 mattino. Newtown che cade a pezzi, sono i 50 rientrati nel centro storico, governo assente 6 anni dopo il terremoto dell'Aquila, e Matteo Renzi che parla su Facebook e dice: dopo tante promesse siamo finalmente passati all'azione. Che succede? Che aspetta il futuro dell'Aquila? Saluto il sindaco Massimo Cialente, buongiorno. Buongiorno a voi. Vi è dispiaciuta l'assenza di Renzi? Ma guardi, io non avevo invitato Renzi, avevo invitato altri esponenti del governo, i quali però molto cortesemente mi avevano avvertito di avere dei problemi a venire. Io capisco anche che il giorno di Pasqua magari chi è preso dall'azione di governo sempre si possa prendere anche un giorno con la famiglia. Insomma, mi hanno chiamato, mi hanno detto non ce la facciamo venire, non importa, insomma è stata insomma poco polemico con Renzi, non se la no, prende assolutamente no. Ma no. È vero che i soldi ci sono? Sì, adesso finalmente ci sono. Ma ci questa. Sono cash o ci sono, sono virtuali? Cash di cassa. Per arrivare lei capisce come funziona, no? Ci vuole una delibera CIPE che dice va bene, diamo i soldi per il comune dell'Aquila, e la delibera CIPE una volta passata va alla Corte dei Conti, dove deve subire la bollinatura, questo si dice in gergo, e quindi siamo in Italia, quindi è chiaro che passano un po' di mesi. Noi i soldi abbiamo chiesto circa un mese fa per pubblicare il nuovo elenco finalmente del centro. Quando è che conta di spendere il primo euro? Ma guardi, io spero di poterlo spendere fra 2-3 mesi. L'importante però adesso, vede, la situazione è inquadrata in questo modo sulla ricostruzione. Quest'estate l'euro cash da spendere? Sì, io spero già nel mese di maggio di poter far partire i primi cantieri del centro storico. E il primo progetto, il primo euro a cosa andrà? No, noi abbiamo già pronto l'undicesimo elenco, diciamo così. L'undicesimo elenco? Sì, l'undicesimo elenco che questa volta finalmente riguarda cantieri del centro storico. Perché noi, la cosa che non è chiara quando si dice l'Aquila è una città fantasma, è stata una scelta sbagliatissima fatta dall'allora commissario del governo, in quanto si impose che per la ricostruzione dei centri storici, al contrario delle periferie, fosse necessario un piano di ricostruzione, cosa che non aveva alcun senso, perché il centro storico in una città vincolata all'80% al Ministero dei Beni Culturali, un piano di ricostruzione non vuol dire nulla, no? Non va ricostruito, va rimesso ma in sicurezza. Va ricostruito in sicurezza, antisismica, eccetera eccetera, ma va riportato al, diciamo così, a un vincolo paesaggistico. Non è impensabile che un centro storico, lei pensa alle piazze più importanti d'Italia, se pensa di togliere uno di quegli edifici per fare esempio un partito. È vero che solo in 50 vivono nel centro storico, non si sentono un po' soli? È successo questo perché noi sino al 2013 non si poteva parlare 50, per legge, di centro storico. No, ma il centro storico è tuttora un buco nero, perché sino al 2013, al marzo 2013, con la legge Barca, non si potevano mettere le mani sul centro storico nella ricostruzione. Noi siamo riusciti a recuperare alcuni edifici storici perché il Comune dell'Aquila, rischiando addirittura una denuncia, fu minacciata, costrinse la sovrintendenza a intervenire dando la possibilità di riparare alcuni edifici, dicendo: dato che tu sei la sovrintendenza, intervieni direttamente tu. Intervieni tu. Senta, sindaco, noi abbiamo pochissimi palazzi, vede, pochissimi palazzi restituiti a uno splendore unico, e mi fa dire che fra 3 anni l'Aquila sarà uno dei centri storici più belli d'Europa. E ce l'auguriamo. 6 anni dopo, le New Town furono un errore? Ma guardi, le New Town non le posso dire se sono state un errore o meno. Probabilmente si doveva intervenire per dare un alloggio sostitutivo per almeno 10 anni alle persone. E a mio avviso è stata scelta una operazione che, pur permettendo di risparmiare territorio, perché costruire 6.000 mappe avrebbe comportato un grande dispendio di territorio, la verità è che sono stata un'operazione molto costosa, a mio avviso. Si poteva intervenire in modo... Quei soldi potevano essere spesi diversamente? 200 milioni. Io credo che la soluzione New Town, che era stata studiata, perché mi fu proposta dal Premier Berlusconi la mattina del 7 di aprile, quindi era una cosa già decisa, già progettata, si potesse adattare in situazioni che abbiamo conosciuto in altre tragedie simili, in cui i terremoti hanno riguardato dei piccoli centri, per cui in un piccolo centro costruire 1 o 2 piani. I numeri sono diversi, certo. E qui i numeri, ma tant'è vero che mi hanno lasciato alla fine, quando la Protezione Civile andò via, mi lasciò 1700 nuclei familiari addirittura negli alberghi, perché non era stato costruito nulla per loro. Perché? Perché erano finiti i soldi. Erano finiti i soldi. Parliamo anche di trasparenza, però, perché non si può non parlarne. Di inchieste ce ne sono state e diverse. Questa volta arrivano di nuovo i famosi euro da spendere. Come andrà? Ma guardi, io finalmente sto per raggiungere un piccolo obiettivo che ho perseguito per anni, vale a dire una legge molto più stringente sulla ricostruzione privata, e le spiego. Noi abbiamo una ricostruzione privata nella quale è il cittadino o il condominio che sceglie il progettista, sceglie l'impresa e ripara. Io ho sempre detto che questo meccanismo non poteva essere valido, perché c'è un problema: che soldi li mette lo Stato, e lo Stato e il Comune dell'Aquila. Ma il problema della trasparenza, più che sui privati, è sul pubblico. La scelta dell'impresa è sul pubblico, però mi pare di capire. No, ma sul pubblico, io guardi, le posso dire una cosa: sugli appalti pubblici io sono molto sereno, perché c'è un controllo assoluto. Ci sono chiaramente tentativi di infiltrazione, perché dovunque sono i soldi, no? L'abbiamo visti ovunque, però al contrario di Expo e Mose e altre vicende che sono sparse per l'Italia, in parte anche di quello che è successo in Emilia, dove abbiamo avuto 160 arresti, qui sin dall'inizio il compianto procuratore Rossini, insieme agli enti locali, diciamo, abbiamo intrecciato un setaccio molto fitto. Io, però, di inchieste ce ne sono state, voglio dire, anche... Ce ne sono state, molte sono sollecitate da me. Vede, io faccio una piccola cosa, lei capisce, il sindaco, su tutto in una città di provincia, viene a sapere un po' tutto, no? Allora io, qualunque notizia ho che sia un po' strana, mi faccio una chiacchierata o con il procuratore o con la Guardia di Finanza, per cui diciamo che noi stiamo esplorando anche molte situazioni che in effetti poi si rivelano non essere... Ma ne ha avute di chiacchiere ultimamente? Sì, sì, in continuazione vado... Stiamo cercando di controllare un po' tutto. Chiacchiere adesso, da mettere sotto controllo? Cioè, dobbiamo aspettarci altra pulizia? Sì, ma io le dico di più, finalmente si ha, è addirittura al vivo la cosiddetta legge Legnini. Nata no, ma al di là delle leggi, altra pulizia, nel senso che secondo lei succederà altro a breve? Secondo me sì, stiamo controllando alcuni subappalti e così via, e potrebbe essere che comprovate dalle indagini si abbia la possibilità di intervenire. Guardi, questo è come una battaglia con un organismo, no? Entra un virus e immediatamente entrano in gioco gli anticorpi. Un antivirus per debellarlo definitivamente? No. Un antivirus non esiste, perché i virus sono tanti e si presentano sotto forma diversa. Allora, l'importante è che ci sia il sistema immunitario. Io credo di poter dire che all'Aquila il sistema immunitario c'è e funziona grazie ai servitori anche dello per Stato i prossimi euro in arrivo di cui parla Renzi. Quelli ancora di più, io sono ottimista, perché avremo una legge che darà maggiore trasparenza anche nella ricostruzione privata. Poi c'è un'altra cosa che ieri Renzi scriveva sul suo Twitter, ma che noi già applichiamo, noi pubblichiamo tutto. Ad esempio, la riparazione di casa mia, che è stata fra le prime, perché era una casa, siamo in chiusurissima, è pubblicata. È pubblicata. Allora, la vede tutto. Virus c'è, gli antivirus anche. Speriamo, con i soldi in arrivo finalmente all'Aquila si spera. Grazie al sindaco Massimo Cialente per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie in regia come sempre a Peter Bescapè, Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni in redazione, da Anna Migliorati. Buona giornata. Ci risentiamo ancora domani con 24 Mattina.